distrarre mie pupille il lume per mano di Tobia. Non dubitarne, quello è Tobit, Tobit, io te presente, la sposa del tuo figlio. Benedetto Dio che amore ti guida e ti protegge o sa. Si effettui l'opra. stanchezza e la tua sposa chiede riposo e cibo. Il dolce ufficio prima comprir desio, con preci e voti implori a mo' devoti l'assistenza del cielo in tal periglio. Di degno vi